Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 5 aprile, il sole in regione sorto alle 6.39 e tramonterà alle 19.42. Martedì c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Mentre tanti settori della distribuzione stanno sentendo i contraccolpi della crisi legata al coronavirus, quello dell'ortofrutta sta ancora reggendo grazie all'impegno di tutti, in primis i camionisti. A seguire Enos Costantini che fa le sue considerazioni sul fatto che, mentre ci invitano da più parti a mangiare italiano, pochi sanno ad esempio che il 65% dell'alimentazione zootecnica arriva dall'estero. Le nuove disposizioni in materia di agricoltura legate alla crisi potrete sentirle nella rubrica delle normative. Mentre continuano i consigli per l'impianto corretto dell'uliveto. A seguire una tesi di laurea sui giardini nell'antica Roma e i dati allarmanti della sicurezza per chi lavora nel bosco in uno studio dell'Università di Udine. Andamento dei mercati, previsioni del tempo e il proverbio friulano di vita nei campi chiudono la puntata. Situazione dell'ortofrutta nella nostra regione. Ci sono dei problemi di approvvigionamento, ci sono delle tensioni su questi mercati. Lo chiediamo a Giuseppe Pavan, che è vicepresidente di Udine Mercati e vicepresidente nazionale anche di Fedagro Mercati. Ma in effetti le tensioni per il momento nella piattaforma di Udine Mercati non si presentano. Non viene ancora a mancare prodotto da tutta Italia. Noi ogni notte per dare la fornitura a tutta la nostra regione ci stiamo impegnando molto. Come si lavora al mercato ortofrutticolo? Oramai ci siamo organizzati, all'entrata tutte le persone che entrano tramite la Croce Rossa misuriamo la temperatura. Dopo questo controllo abbiamo anche stabilito con tutte le aziende e non solo di dare un servizio all'interno di controllo per quello che riguarda la distanza con delle guardie giurate. Oltre a questo, all'interno delle varie aziende abbiamo soprattutto sensibilizzato di portare le mascherine. Chi non ha la mascherina gliela forniamo noi, gliela diamo noi volentieri. C'è carenza di qualche prodotto? Carenza di qualche prodotto c'è, dovuto alla situazione climatica che abbiamo avuto al sud. Da caldo siamo andati al freddo con delle gelate e anche in Puglia con delle nevicate. Parlo di broccoli, parlo di cavoli, ma altri prodotti che hanno trovato un prezzo elevato in questo momento non esistono, quindi credo che come prezzi siamo nella normalità. Quindi ci sarebbe stata questa situazione anche se non ci fosse stata l'emergenza coronavirus. Per quanto riguarda invece l'approvvigionamento, i camionisti, come stanno lavorando? La categoria degli autotrasportatori, devo dire la verità, che stanno facendo uno sforzo notevole. Uno sforzo notevole perché sappiamo che hanno problematiche di ritorno, quindi di carico, e hanno dei costi raddoppiati. Raddoppiati perché quando uno non ha il viaggio di ritorno si trova con dei costi aggiuntivi e purtroppo il camion deve ritornare al sud vuoto. Sta succedendo questo da quando sono state chiuse tutte le fabbriche, le industrie. Seconda cosa, ricordiamo che stanno viaggiando in autostrada con autogrill, ristoranti e quant'altro, tutti chiusi. Qualcuno lamenta la mancanza, per esempio, della farina nei supermercati. Cosa succede? Ma guardi, questo non è una materia mia, però per informazione ai detti lavori sembra proprio che manchi, ma soprattutto manca purtroppo tutta quella quota importante di prodotto che viene importato. La filiera locale, la filiera friulana, potrà dare una mano quest'anno? Se parliamo di filiera agricola, sicuramente sì. Noi siamo a stretto contratto anche con tutti gli agricoltori, con le varie associazioni, ma credo che dobbiamo dare un senso di unificazione di tutti i comparti della filiera, perché in questo momento che stiamo vivendo tutti di difficoltà, dobbiamo assolutamente unirci e fare squadra su quello che è dal mondo della produzione al mondo dell'ultimo al consumatore. Quindi tutti devono fare la loro parte. Il piccolo dettaglio sta facendo un grande lavoro, da quello che mi risulta, con servizi a domicilio e lavorano tantissime ore anche per portare un chilo di merce alla signora che purtroppo non può uscire. Noi stiamo dando un servizio anche pomeridiano se serve e siamo a disposizione con ridotto poi il personale, e anche i produttori hanno problemi di quello che riguarda la manovalanza nella campagna. Mentre da più parti ci invitano a mangiare italiano, secondo ultime rilevazioni, ad esempio per il settore zootecnico arriva dall'estero il 65% dei prodotti per l'alimentazione animale. Questa crisi forse può insegnarci qualcosa. Come argomento in questo corsivo, Enos Costantini. Grandi novità questi giorni. Abbiamo sentito i rappresentanti degli agricoltori sostenere ad alta voce che loro producono alimenti. Ma guarda, ormai si pensava che fosse qualche multinazionale svizzera a farlo e che gli scaffali della GDO fossero asettiche campagne. E un grande consiglio ci viene dato: mangiate italiano. Però il Sole 24 Ore del 20 marzo prossimo passato svela una contraddizione in modo tranchant, affermando lapidario che la possibilità di produrre con sole materie prime nazionali e senza fare ricorso alle importazioni è una prerogativa di pochi settori in Italia. Il giornale attinge una fonte non sospetta, cioè dai dati della Federalimentare, la Federazione Italiana dell'Industria Alimentare. Per dirne una, il settore zootecnico ricerca all'estero il 65% dei prodotti per l'alimentazione animale. Detto in altre parole, abbiamo delegato ad altri la distruzione del pianeta, parte dell'inquinamento e delle cause del globale riscaldamento. Non è una buona soluzione, visto che abitiamo tutti nello stesso litigioso condominio. È nostra ferma convinzione, peraltro, che in Europa e in Friuli avremmo risorse più che sufficienti di terra, di acqua e di luce per nutrire abbondantemente tutti gli europei e tutti i friulani. A che cosa dovremmo rinunciare? A quegli pseudoalimenti, veri attentati alla salute, che sono le trasformazioni industriali, spesso parossistiche, degli alimenti come nascono nei campi e nelle stalle. Quindi, mangiare cibo vero, tutto lì. Sì, anche un po' di carne in meno, ma non ci pare un grande sacrificio, soprattutto se al posto degli affettati di origine ignota e di fabbricazione più che sospetta mettiamo ogni tanto un salame friulano, confezionato secondo tradizione però. Circa frutta e verdura si tratterà di rinunciare a quella che viene da oltreoceano. E sarebbe ora di finirla con le bevande zuccherate dai cromatismi inquietanti. Tutte cose dove l'agricoltura non ci guadagna niente. Il vero sovranismo europeo e friulan venezian giuliano è soltanto quello alimentare. Al centro dell'agenda politica ci deve essere la produzione di cibo, cioè l'agricoltura, non la distruzione sistematica del cibo, per fare innovazione a favore di due industrie, quella cosiddetta alimentare e quella per nulla cosiddetta farmaceutica. Per il vino niente paura. Malgrado il becero, luogo comune che ci vuole Chiocchelis, le statistiche sono implacabili. Siamo diventati quasi astemi. A distanza di un mese dalla decretazione dello stato di emergenza sanitaria arrivano le prime misure anche per l'agricoltura. Marco Malison, responsabile tecnico economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, ce le illustra. Sì, nelle ultime due settimane sono state emanate diverse disposizioni, sia da parte del governo che dalla regione. Alcune contengono incentivi economico-finanziari, altre riguardano proroghe o deroghe dei più diversi procedimenti amministrativi. Cominciamo dagli incentivi economici. Beh, se escludiamo l'estensione della cassa integrazione a tutte le imprese agricole, anche quelle con un solo dipendente, al momento di intervento economico diretto c'è poco. Nel cosiddetto decreto Cura Italia, su 127 articoli, ce n'è uno solo specifico per il settore agricolo, l'articolo 78, che prevede di innalzare dal 50 al 70% la percentuale di anticipo della PAC. C'è poi un incremento di 50 milioni di euro per l'acquisto di latte italiano da destinare agli indigenti e infine altri 100 milioni per interessi passivi in operazioni di ristrutturazione dei debiti, anticipi capitale circolante, perdite dal resto dell'attività di pesca. Questo è l'unico provvedimento che prevede così, diciamo, incentivi? Di pubblicato sì, anche se la ministra Bellanova ha annunciato la firma di due decreti che prevedono 40 milioni di aiuti alla filiera del grano duro, che per evidenti motivi interessa poco la nostra regione, e altre 29 milioni e mezzo destinati a sostenere contratti di filiera per il mais, la soia, le carni ovine e il latte di bufala. Il vero problema però, a quanto si sente, è quello della liquidità delle imprese. Verissimo, in attesa di iniziative del governo su questo terreno si sta muovendo la regione con una legge regionale, la 5 del 2020, pubblicata mercoledì scorso, ha creato i presupposti giuridici per liberare nuove importanti risorse attraverso il fondo di rotazione in agricoltura. E per quanto riguarda le proroghe, ce n'è? La più importante riguarda il programma di sviluppo rurale. Per tutte le misure e investimento è stata decretata una proroga straordinaria di 6 mesi dell'avvio della rendicontazione delle scadenze indicate nei singoli provvedimenti di concessione. La Regione poi ha prorogato fino al 30 giugno tutte le altre scadenze relative a bandi o procedimenti amministrativi previsti con norma regionale, e le relative rendicontazioni vanno al 30 novembre. E per quanto riguarda i bandi comunitari? Sapevamo già che le domande dei pagamenti diretti a superficie della PAC sono spostate al 15 giugno, salvo ulteriori differimenti che però dovranno trovare disposizione della Commissione europea. Per quanto riguarda invece i bandi dell'OCM Vino, abbiamo avuto la proroga dal 31 marzo al 30 maggio delle domande di assegnazione di nuove autorizzazioni all'impianto dei vigneti e dal 31 maggio al 15 luglio per le domande di aiuto alla ristrutturazione, bando questo che dovrebbe aprire tra qualche giorno. Dopo le scelte varietali, oggi con Ennio Scarbolo che ci cura la rubrica dell'olio dell'olivo, parliamo dell'impianto, ovvero di come si allestisce in campo il vostro uliveto. Nei nostri climi l'impianto si esegue in primavera inoltrata. Tutto questo per non esporre le giovani piante al freddo invernale e l'abbondante pioggia nel nostro caso. La concimazione di fondo, apporto di elementi nutritivi, fosforo e potassio non dilavabili, che si immobilizzano nel terreno, va fatta prima dell'aratura o interrandoli nelle fasi successive di preparazione del terreno. A questo punto in campo ci troviamo con i pali di sostegno e gli astoni di olivo che sono in vaso, non a radice nuda come di solito sono gli astoni di melo, pero, pesco e vite. Dobbiamo procedere all'impianto. Faremo con il badile un buco di circa 30x30, profondo altrettanto, continuiamo ad approfondire il buco almeno altri 20 cm con un piantapale di ferro, posizioniamo il palo di sostegno con la mazza di ferro e lo approfondiamo fino a 50-60 cm. Oppure lo pianteremo a pressione con un escavatore. In questo caso il buco per l'astone deve essere fatto a mano dopo la piantumazione del palo. Gli astoni sono in vaso di 18-20 cm, vanno piantati nel terreno alla stessa profondità del vaso in direzione del vento dominante. Un esempio, in Friuli Venezia Giulia il vento dominante è la bora che spira da nord-est. In questo caso la pianta rispetto al palo va posizionata a nord-est, davanti, in modo tale che si appoggi al palo e diventi tutt'uno. Questo perché nei primi anni di vita delle giovani piante di olivo lo sviluppo della chioma è superiore a quello delle radici e il forte vento fa molta vela e possono essere divelte o gravemente danneggiate. Legata saldamente alla base del palo e appena sotto la biforcazione dei rami dell'astone, si comprime il terreno tutto intorno alle piante e si distribuiscono 10 litri d'acqua per postazione, in modo tale che la terra aderisca alle radici e occupi tutti gli spazi vuoti. Se non piove, ogni 15 giorni ripetere l'operazione. Come già detto nelle puntate precedenti, in Friuli Venezia Giulia non manca l'acqua, talvolta è mal distribuita. L'olivo in certi areali mediterranei, Tunisia, Creta e Grecia, vive con soli 500-600 mm di acqua all'anno. Da noi cadono 900 fino a 2500 nella zona di Tacento. In definitiva non è giustificato un impianto fisso di irrigazione. Invece, ove possibile, eseguire qualche irrigazione di soccorso per non mandare in stress le piante. La concimazione annuale non esiste una formula standard per tutti gli olivicoltori e in tutti gli areali, ma ci si deve regolare in base agli accrescimenti dei rametti produttivi annuali che non devono superare i 30-50 cm di lunghezza a seconda della cultivar. In definitiva l'apporto di azoto, che è l'elemento responsabile degli accrescimenti, deve essere regolato da singolo olivicoltore nella sua azienda tenendo conto della piovosità e della vigoria della varietà. In ogni caso le concimazioni organiche o concimi misti organici vanno distribuite a fine febbraio-marzo, concimi chimici a marzo-aprile perché di più pronto effetto, in primis il nitrato ammonico, solfato ammonico, l'urea, oppure i concimi complessi NPK assolutamente non oltre la fine di aprile. Le varietà deboli, Maurino, Pennolino, Grignan, hanno bisogno di più azoto, varietà vigorose, Frantoio, Gorgasso, Bianchera, molto meno o niente. Non potendo visitare i giardini direttamente, la lettura e la cura del giardino sono d'aiuto in questo periodo. Franca Merluzzi, che ci cura questa rubrica, ci parla di un'interessante tesi di laurea sui giardini degli antichi romani. Se hai un giardino e una biblioteca, nulla ti manca. Così scrisse un famoso e ricco personaggio dell'antichità, Marco Tullio Cicerone. Diciamo che a noi non basta, ma sicuramente dedicarsi alla lettura, stare e ancor più lavorare nel giardino o nell'orto aiuta. Specialmente adesso serve a distogliere la mente dai brutti pensieri e ad alleggerire le tensioni. L'anno scorso ho conosciuto Beatrice Nardini, che assieme a sua madre, Anna Pian, cura un delizioso orto roseto incastonato proprio sotto le pareti rocciose del forte di Osoppo. Era visitabile con le rose in piena fioritura durante la manifestazione Giardini Aperti. Beatrice, oltre a essere un'appassionata di garden design e di progettazioni di giardini, che pratica a livello amatoriale, si è laureata in italianistica all'Università di Udine. In questi giorni ho letto la sua tesi. Affascinante l'argomento scelto, gli orti degli antichi romani. Orti è la parola con cui i latini intendevano sia gli orti coltivati, sia i giardini e i grandi parchi. Un tema affrontato da più punti di vista, per cercare almeno di immaginare quei luoghi perduti o di cui rimangono solo poche tracce. Cosa emerge in particolare da questo studio? La tesi è una miniera di notizie, partendo dalle opere letterarie fino alle scoperte archeologiche con tecnologie avanzate. Semi, pollini, frutti e altri resti vegetali carbonizzati, rinvenuti nel terreno, insieme ai calchi delle radici, hanno permesso di individuare le piante ornamentali e da frutto, presenti nelle case di Pompei e in alcune ville romane. Così sappiamo che oltre alla vite e all'ulivo erano diffuse numerose altre specie, compresi i fiori. Un catalogo botanico davvero ricco, più di quello che finora si pensasse. I romani sentivano molto il rapporto con la natura e il giardino fu sempre spazio vissuto e parte integrante della casa, da quella più modesta alle sontuose ville degli imperatori. Anche l'università, e tra queste l'Università di Udine, si occupa di sicurezza, sicurezza sul lavoro, sicurezza in agricoltura. Il professor Rino Gubiani, che all'Università di Udine insegna meccanizzazione agroforestale, si sta occupando dei temi della sicurezza in bosco. Innanzitutto, professore, percezione, realtà e cifre della sicurezza in questo ambito. Spesso la percezione è molto diversa dalla realtà. Facciamo conto che, ad esempio, per gli omicidi in Italia c'è una percezione abbastanza grave, che sia un problema molto grave. In verità c'è un morto ogni circa 100.000 abitanti. Tanto per dire, nell'agricoltura questa cifra sale a 30 ogni 100.000 lavoratori e nel bosco addirittura a 100. E questo ci dà l'indice che è un lavoro molto rischioso. Oltre che molto rischioso, è anche molto faticoso. In bosco si fa la stessa fatica che fare una maratona, quasi. E questo incide moltissimo sul rischio di incidenti gravi. Ricordiamo che in bosco la maggior parte degli incidenti mortali avviene durante la fase di abbattimento o sramatura del tronco per rotolamento. E questo è legato molto al fatto che i nostri boschi non sono in piano, ma sono di solito zone molto pendenti, e quindi questo cresce di molto il rischio. Infatti, ma anche il Giappone, tanto per dire che è un paese molto sviluppato, ha un rischio molto alto, e si calcola che sia circa tra i 2 e i 4 incidenti mortali ogni milione di metri cubi lavorati. Ricordiamo che in Friuli più o meno siamo sui 200.000 metri cubi all'anno, tanto per dire la tempesta Vaia ha battuto quasi 800.000 metri cubi di bosco, e questo significa che ci dobbiamo aspettare alcuni incidenti mortali. Le discriminanti sono quelle della fatica e anche della fretta. Sì, difatti dalle ricerche anche americane risulta che correlata gli incidenti al prezzo del legno. Quando si abbassa il prezzo del legno, le ditte chiaramente per mantenere il reddito uguale aumentano la velocità di lavoro e il turno di lavoro, e questo porta a un aumento immediato degli incidenti gravi. Che fare? Le misure premianti forse sono la soluzione? Sì, misure premianti per le aziende che rispettano le norme di sicurezza, e poi chiaramente cercare di meccanizzare il più possibile, migliorare la viabilità in modo che le macchine possano utilizzare il più possibile il bosco, anche se chiaramente in Friuli parte del bosco non è in piano e quindi rimane sempre una difficoltà di fondo. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento stazionario, con un mercato poco attivo venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine e Pordenone, avvenute attraverso videoconferenze causa coronavirus. Il mais, con umidità 14%, è stato quotato tra 17,20 e 17,40 euro al quintale, IVA esclusa. La soia tra 37 e 37,30. L'orzo, con peso specifico 60-63, tra 16,30 e 16,80. Il frumento tra 20 e 20,60. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 70 centesimi e la soia di 4,40 euro al quintale. Settimana discreta nel settore della pesca per le condizioni favorevoli del tempo, con prezzi in lieve ripresa. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, vengono quotati da 18 a 30 euro al chilo, IVA esclusa. Le ombrine da 13 a 28, i laterini da 8 a 10, i gamberetti e le passere da 10 a 15, le mormore da 8 a 15, le seppie da 6 a 12, lo scrofano da 4 a 10 e le capesante da 10 a 14 euro al chilo. Andamento con scambi rallentatore nel mercato degli aviconicoli, rilevato dal CUN di Verona, dove i polli a terra vengono pagati tra 1,21 e 1,23 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,41 e 1,43, le anatre e le faraone tra 2,31 e 2,33, i conigli oltre 2 chili e mezzo tra 1,94 e 2 euro, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 17,50 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer, Marcellino Salvador, sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. Aprile è iniziato con alta pressione, aria secca e fredda che ha determinato gelate anche intense in pianura e sul Carso di notte e primo mattino, con temperature comprese tra meno 1 e meno 4 gradi. Ben più bassi i valori in montagna, con punte attorno ai meno 10, più 5 le minime sulla costa. Da ieri le temperature sono aumentate. La situazione generale vede un anticiclone sull'Europa centrale, con afflusso di correnti secche orientali sulla nostra regione. Questa situazione si protrarrà per diversi giorni e probabilmente fino a Pasqua, associato anche ad un graduale aumento della temperatura. Per la prima parte della settimana entrante avremo quindi cielo sereno, bora moderata sulle zone orientali e sulla costa, un po' più sostenuta a Trieste. Temperature massime sui 22 gradi in pianura e 20 sulla costa, minima sui 5 gradi in pianura e 10 sulla costa. Lo zero termico salirà oltre i 2000 metri di quota. Nella seconda parte della settimana la bora cesserà, permarrà tempo stabile e soleggiato e le temperature massime saliranno ancora di qualche grado in pianura e sui monti, mentre sulla costa le brezze limiteranno le massime ai 20 gradi, visto che il mare, con la frequente bora di questo periodo, ha circa 12 gradi. Per quanto riguarda le piogge, invece, rimarranno completamente assenti, almeno fino a Pasqua. Termina qui la puntata, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano: ploe il 5 di avril, brut timp tut el mes, ovvero se piove il 5 aprile, pioverà tutto il mese. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima.